Il giorno dopo mi sono alzata molto tardi, dato che l'indulgente superiora mi aveva esentata dalla messa delle 6 a cui dovevamo partecipare a Santa Rosa. Basta che vi facciate vedere a quella delle 11, mi aveva detto la brava donna, e se la salute non ve lo consente, vi dispenso dal partecipare anche a quella. Il primo giorno abbiamo fatto visita a tutte le religiose che volevano vedermi, toccarmi, parlarmi e che mi facevano domande su tutto, come ci si veste a Parigi, che cosa si mangia, ci sono dei conventi e soprattutto che musica nuova si esegue. Le trovavamo a gruppi nelle celle che parlavano tutte insieme, ridevano, dicevano frasi argute, ci offrivano dolci di ogni genere, frutti, marmellate, creme, zucchero candito, sciroppi e vini di Spagna. Era un susseguirsi di banchetti. La superiora aveva organizzato un concerto serale nella sua piccola cappella. Ho ascoltato della buona musica con i più bei brani di Rossini, eseguiti da tre giovani e graziose suore che amavano le note non meno della loro superiora. Il pianoforte era uscito dalle mani del più abile artigiano di Londra e la superiora lo aveva pagato 4.000 franchi. Anche Santa Catalina appartiene all'ordine delle carmelitane, ma come mi ha fatto osservare la superiora, con molte modifiche. Oh sì, ho pensato, con immense modifiche. Queste suore non portano lo stesso abito di quelle di Santa Rosa. La loro veste è ampia, di tessuto leggero e setoso, è di un biancore abbagliante e allo strascico. Nei giorni di festa solenne portano un velo nero e una cuffia di crespo dello stesso colore, con un plissé talmente grazioso che avrei voluto portarne via una con me come oggetto di curiosità. La sua forma aggraziata rende armoniosa la fisionomia di chi lo porta. Il velo è abbassato solo in chiesa e nelle cerimonie pubbliche. Queste pie donne parlano abbastanza e spendono quasi tutte molto, perciò si è indotte a credere che non facciano voto né di silenzio né di povertà. La chiesa del convento è grande e gli addobbi sono ricchi ma tenuti male. Solo l'organo è molto bello. I cori e tutto ciò che concerne la musica sono oggetto di cure particolari da parte delle religiose. L'edificio del convento, composto da due corpi, uno vecchio e uno nuovo, è piuttosto bizzarro. Le celle della parte nuova sono piccole ma ariose e piene di luce e si affacciano su tre piccoli chiostri di elegante costruzione, al centro dei quali c'è un cortile con un'aiuola di fiori e due belle fontane che garantiscono freschezza e pulizia. L'esterno dei chiostri è piantato a vigneti. Il vecchio convento è un vero labirinto di vie e viuzze in tutte le direzioni, attraversate da una strada principale lungo la quale ci si arrampica come su di una scala. Su quel dedalo di sentieri si affacciano le celle che costituiscono gli avancorpi della costruzione originaria e che sono come delle piccole case di campagna per le religiose che vi abitano. Alcune hanno un cortile d'ingresso abbastanza spazioso da allevare i polli, vi si affacciano la cucina e l'alloggio delle schiave, mentre su un secondo cortile si affacciano due o tre stanze con un giardino sul retro e un piccolo ritiro dal tetto a terrazza. Da più di 20 anni queste suore non fanno vita comune. Il refettorio è abbandonato, come pure il dormitorio, anche se, per rispettare la forma, ognuna vi conserva il proprio letto bianco, come esige la regola. A differenza delle carmelitane di Santa Rosa, esse non sono tenute a tutte quelle pratiche religiose che occupano la giornata. Dopo aver compiuto i loro doveri, hanno molto tempo libero che dedicano alla cura dell'abitazione e degli abiti, alle opere di carità e anche al divertimento. La comunità dispone di tre vasti giardini che producono mais e ortaggi, mentre i fiori vengono coltivati nei giardini delle celle. Le suore conducono una vita molto laboriosa, eseguono ogni sorta di lavoretti di cucito, prendono delle pensionanti che istruiscono e hanno una scuola frequentata gratuitamente dalle bambine povere. La loro carità si estende a tutti i campi. Offrono la biancheria agli ospedali, la dote alle ragazze, distribuiscono il pane e il mais ai poveri e regalano i vestiti. Le entrate di questa comunità raggiungono somme enormi che le suore elargiscono in proporzione alla rendita. All'epoca della mia visita, la superiore aveva 72 anni. Nominata e destituita a più riprese, è sempre stata osteggiata dai preti che avevano autorità sul convento a causa della sua estrema bontà, la stessa che la faceva ogni volta rieleggere dalle religiose che avevano il diritto di voto. Era una donna amabile, l'esatto opposto di sua cugina di Santa Rosa, e talmente sottile e delicata da sparire quasi del tutto nell'abito lungo e ampio. Era stata malata tutta la vita e l'unica cosa che recava un po' di sollievo ai suoi mali era l'ascolto di buona musica. Il viso e le mani decrepite rivelavano gli anni, ma era inimmaginabile trovare una vivacità e un dinamismo così grandi in una donna della sua età con un fisico così fragile. La sua conversazione era allegra, piena di battute originali e argute, e nessuna delle suore giovani la superava nella passione che metteva nel parlare. Quando le ho riferito il discorso della superiora di Santa Rosa, lei ha alzato le spalle e con un sorriso di pietà e un'espressione eloquente ha detto: «Mia cara ragazza, se avessi 30 anni, verrei con voi a Parigi ad assistere ai capolavori sublimi dell'immortale Rossini rappresentati all'Opéra. Una sola nota di quest'uomo di genio è più utile alla salute morale e fisica dei popoli di quanto lo siano stati per la religione gli spettacoli orrendi degli auto da fè dell'Inquisizione». A Santa Catalina le suore facevano più o meno quello che volevano. La superiore era troppo buona per disturbarle o per contrariarle. L'unico tipo di aristocrazia che ho notato nel convento era quella dettata dalla ricchezza, che sopravvive anche nel cuore delle democrazie più avanzate. Le religiose di Santa Catalina erano davvero progredite. Tre di loro erano considerate regine del luogo. La prima, che all'epoca della mia visita poteva avere 32 o 33 anni, era stata messa in convento all'età di 2 anni. Apparteneva a una delle famiglie più ricche della Bolivia e al suo servizio aveva 8 nere, le Samba. La seconda, di origine catalana, era una giovane di 28 anni, alta, snella e con la bellezza ardita e viva delle donne di Barcellona. Era orfana, aveva 40.000 lire di rendita e viveva al monastero da 5 anni. La terza, un'affabile creatura di 24 anni, buona, allegra e ridente, era suora da 7 anni. La più grande si chiamava Margarita ed era la farmacista del convento. La seconda, Rosita, era la portinaia. La più giovane, Manuelita, era troppo leggera e incosciente per avere anche il più piccolo incarico. Sin dal giorno dopo il nostro arrivo, tutte e tre avevano manifestato un vivo desiderio di ascoltare il racconto dettagliato della storia della povera Dominga, e nel convento correva voce che avessero in mente un'avventura ancora più terribile della sua. Rosita aveva la stessa età di Dominga, che aveva conosciuta da bambina, e aveva per lei il più grande interesse. Mia cugina Althaus non chiedeva di meglio e si è offerta allegramente di raccontare, forse per la 20ª volta, questa storia, per soddisfare la curiosità delle tre donne. La sera precedente la nostra partenza, Manuelita ci ha invitate a cena in modo da poter parlare a nostro piacimento con lei e con le sue amiche. Il banchetto ha concluso allegramente i 6 giorni piacevoli passati in quel luogo. Manuelita ci ha ricevute nel suo piccolo alloggio grazioso nel convento vecchio. Il convito è stato uno dei più eleganti e con il servizio migliore fra quelli a cui ho partecipato durante il mio soggiorno ad Arequipa. C'erano belle porcellane di Sèvres, biancheria damascata, argenteria elegante e coltelli vermeil per il dessert. Quando è terminato, la graziosa Manuelita ci ha invitati a passare nel ritiro, ha chiuso la porta del giardino e ha dato ordine alla nera di non disturbarci per nessuna ragione. Il ritiro non era grazioso come quello della superiora, ma più originale. Essendo io straniera, quelle donne mi trattavano con tutti gli onori. Mi hanno lasciato tutto il divano e io mi sono allungata comodamente appoggiandomi ai cuscini di seta. Le tre religiose, elegantissime nel loro abito a pieghe larghe, hanno preso posto attorno a me. Rosita era seduta su di un cuscino di velluto con le gambe incrociate, secondo l'uso del paese, e si appoggiava al piede del divano. La buona Manuelita era seduta vicino a me e giocava con i miei capelli, sciogliendoli e intrecciandoli in modi diversi. La seria Margarita, al centro, mostrava compiaciuta la sua bella mano bianca e grassottella che correva sui grossi grani del rosario d'ebano. Mia cugina, come richiesto dal suo ruolo di protagonista, era seduta di fronte all'uditorio su di una grande poltrona antica con un grosso cuscino sotto i piedi. Ha cominciato a parlare dei motivi che avevano indotto Dominga a farsi suora. Dominga era la più bella di tre sorelle e già a 14 anni la sua avvenenza ispirava sentimenti d'amore. Piacque a un giovane medico spagnolo che, venuto a sapere che era ricca, cercò con ogni mezzo di farsi amare da lei, cosa facile del resto. Dominga nasceva allora al mondo, era tenera e ingenua e lo amò come si ama a quell'età, con sincerità e fiducia, credendo, povera ragazza, che l'amore che ispirava fosse uguale a quello che lei provava. Lo spagnolo la chiese in moglie e la madre acconsentì, ma temendo che la figlia fosse troppo giovane, volle che il matrimonio non fosse celebrato prima di un anno. E lo spagnolo, come quasi tutti gli europei che approdano qui, era dominato dall'avidità, vagheggiava grandi ricchezze e l'unione con Dominga gli pareva un mezzo per conquistarle. Qualche mese dopo la richiesta, egli rinunciò all'amore sincero di questa ragazza per una vedova senza qualità ma molto danarosa e non mostrò la più piccola preoccupazione per il profondo dolore che le avrebbe causato abbandonandola. Il tradimento dello spagnolo ferì profondamente il cuore di Dominga. Il matrimonio era stato annunciato pubblicamente a tutta la famiglia e la sua fierezza non poté sopportare questo oltraggio. La giovane si sentiva umiliata e i tentativi di consolarla non facevano che aumentare un dolore che avrebbe voluto celarsi anche a se stesso. Nella sua disperazione, ella vide come unico rifugio il convento. Comunicò alla famiglia che Dio la chiamava a sé e che era decisa a entrare in monastero. I parenti unirono gli sforzi per dissuaderla, ma le sofferenze del cuore e lo stato di esaltazione in cui era non le permisero di ascoltare le preghiere. Fu tutto inutile. La giovane si mostrò indifferente ai rimproveri, quanto era stata sorda ai consigli. La resistenza incontrata in famiglia e il suo coraggio testardo la portarono a scegliere il convento delle Carmelitane con la regola più rigida. Dopo un anno di noviziato, Dominga prese il velo a Santa Rosa. Sembra che nei primi 2 anni a Santa Rosa, grazie al fervore del suo zelo, Dominga fosse felice. Passato questo periodo, però, ella cominciò a stancarsi della severità e dell'esaltazione morale dell'ordine. Alcune riflessioni tardive le fecero versare lacrime sul destino che si era costruita da sola. Non osò parlare del suo dolore e dei suoi guai ai parenti che si erano fermamente opposti alla sua decisione e che d'altra parte non avrebbero potuto aiutarla. Voi sapete, continuò mia cugina, che una volta entrate in uno dei vostri ritiri non se ne esce più e ogni rimpianto è inutile. Le tre religiose si guardarono furtivamente, ci fu tra loro uno sguardo d'intesa che non ci sfuggì. La sventurata Dominga chiuse il suo dolore nel cuore e, senza sperare che qualcuno potesse recarle sollievo, si rassegnò a soffrire aspettando la morte come la fine dei suoi mali. Ella considerava ormai il convento come una prigione. E la sua salute, un tempo eccellente, si indeboliva ogni giorno. Le guance non avevano più il colorito acceso che aveva dato tanto splendore alla sua bellezza quando viveva nel mondo, ma erano di un pallore mortale. I suoi begli occhi erano spenti e infossati nelle orbite, come quelli dei penitenti sfiniti dalle austerità del chiostro. Verso la fine del terzo anno, la lettura di un passo di Santa Teresa in refettorio venne a darle la speranza della liberazione. Il brano descrive in 1000 modi ingegnosi in cui il demonio induce in tentazione le monache. La santa riferisce la storia di una suora di Salamanca che cedette al desiderio di evadere dal convento. Il demonio le aveva suggerito l'idea di mettere un cadavere di donna nel letto della sua cella per far credere alla comunità di essere morta e per avere il tempo, con l'aiuto di un messaggero del diavolo, dall'aspetto di un bel giovane, di mettersi in salvo dagli alguacil della Inquisizione. Sarebbero gli ufficiali giudiziari, gli alguacil. Per la ragazza fu un lampo improvviso. Anche lei avrebbe potuto uscire dalla sua prigione come la religiosa di Salamanca. Da quel momento nel suo animo entrò la speranza e finì l'angoscia. Il tempo le bastava appena per pensare al modo di realizzare il suo progetto. Nessuna pratica le sembrava troppo austera e nessun dovere penoso perché vedeva un termine ad essi. Il suo modo di essere verso le altre suore cambiò completamente. Cercava tutte le occasioni per parlare con loro e conoscerle a fondo. Si intratteneva soprattutto con la suora portinaia, il cui incarico durava solo 2 anni. A ogni cambio, ella si sforzava con le sue assidue attenzioni di entrare nelle grazie della nuova arrivata. Per assicurarsi la devozione illimitata della nera che faceva le commissioni fuori dal convento, si mostrò molto buona anche con lei. Prudente e perseverante, la giovane non dimenticava nulla che potesse agevolare il suo piano. Prima che potesse realizzarlo, trascorsero ben 8 anni, durante i quali passò più volte dalla gioia delirante del prigioniero pronto a evadere con destrezza e coraggio, allo scoramento profondo e alla disperazione dello schiavo sorpreso al momento della fuga e riconsegnato nelle mani del padrone crudele. Sarebbe troppo lungo raccontare le ansie e i timori che si alternavano alle speranze. A volte, dopo aver passato un paio d'anni ad adulare una vecchia portinaia dura e arcigna, quando si credeva sicura della sua simpatia e discrezione, succedeva qualcosa che le faceva vedere il pericolo corso, se avesse fatto l'imprudenza di fidarsi di lei. Il pensiero le causava brividi di terrore e, spaventata dal rischio, lasciava passare molti mesi prima di fare nuovi tentativi. A volte una portinaia che sembrava buona e capace di tenere il segreto era sostituita da una specie di cerbera la cui voce raggelava la povera Dominga. La giovane religiosa visse per 8 anni in mezzo a queste crudeli ansietà e non si capisce come la sua salute abbia potuto resistere a un'agonia così lunga. Alla fine, sentendo di essere allo stremo delle forze, decise di aprirsi con una compagna a cui si era legata e che era appena stata nominata portinaia. La sua fiducia fu ben riposta e quando fu sicura dell'aiuto e del silenzio della sua alleata, pensò a come procurarsi i mezzi per attuare il suo piano. Doveva affidarsi alla schiava nera che le faceva le commissioni, senza il suo aiuto era impossibile riuscire. Questa fiducia era piena di pericoli, ma Dominga fu ammirevole per il coraggio e la perseveranza mostrati nel portare avanti il suo piano di evasione. Comunicava con la sua nera solo attraverso la grata del parlatorio e le sue parole avrebbero potuto essere ascoltate da una delle suore che andavano e venivano silenziosamente, incessantemente, e che tenevano le orecchie ben aperte. Ecco il piano che Dominga aveva concepito e che ebbe l'ardire di esporre alla nera, offrendole una ricca ricompensa per risarcirla dei pericoli a cui si esponeva. Occorreva che la nera si procurasse una donna morta e che la portasse al convento al calar delle tenebre. La portinaia avrebbe dovuto aprirle la porta e farle vedere dove nascondere il cadavere. Dominga sarebbe venuta a prenderlo durante la notte, lo avrebbe portato sul suo letto, gli avrebbe dato fuoco, poi sarebbe scappata via mentre le fiamme bruciavano il cadavere e la tomba. La nera portò il cadavere solo molto tempo dopo essere entrata a far parte dell'impresa della sua padrona. Sarebbe stato pericoloso chiedere una salma all'ospedale, che tra l'altro l'avrebbe data solo ai chirurghi per un uso specifico. Era quasi impossibile ottenere il corpo di una donna morta in casa. Si può star certi che senza i buoni uffici di un giovane medico che fu messo a parte della cosa, l'amica di Dominga sarebbe giunta al termine dei 2 anni in portineria, prima che la schiava avesse potuto procurarsi il cadavere che doveva far credere alla morte della sua padrona. In una notte scura, la nera vinse le sue paure pensando alla ricompensa promessa e si caricò sulle spalle il cadavere di una donna india morta 3 giorni prima. Arrivata alla porta del convento, la samba fece il segnale convenuto. La portinaia aprì tutta tremante e la nera depose in silenzio il suo fardello nel luogo che le veniva indicato. La schiava andò poi a mettersi nella curva di via Santa Rosa ad attendere la sua padrona. Dominga era in preda alla più viva preoccupazione per gli ostacoli che continuavano a impedire l'esecuzione del suo progetto. Attendeva con ansia il risultato degli ultimi passi intrapresi per procurarsi un cadavere. Quando la sua amica portinaia venne ad avvertirla che la nera ne aveva introdotto uno in convento, Dominga cadde in ginocchio e baciò la terra, rimanendo a lungo in quella posizione. Poi portò gli occhi sul Cristo, come sprofondata in un sentimento ineffabile d'amore e di riconoscenza. La sera, la portinaia chiuse la porta con il catenaccio, ma non girò la chiave, che portò come al solito alla superiora, prima di ritirarsi nella tomba. Quando Dominga ritenne che tutte le religiose fossero addormentate, uscì dalla sua tomba dove aveva lasciato la sua piccola lanterna cieca e andò a prendere il cadavere. Era un carico pesante per le sue esili braccia, ma che cosa non spinge a fare l'amore per la libertà? Dominga sollevò l'orribile fardello con la stessa facilità di un cestino di fiori. Lo depose sul letto, lo rivestì dei propri abiti, poi, dopo aver indossato un abito nuovo, diede fuoco al letto e prese la fuga, lasciando la porta del convento spalancata. Mia cugina si è fermata nel racconto e le tre religiose di Santa Catalina si sono guardate di nuovo con un'aria di complicità che mi ha fatto intuire i loro pensieri. Dopo qualche istante di silenzio, Suor Margherita ha chiesto che cosa fosse successo al convento dopo l'evasione di Dominga e come fosse stata considerata la fuga. Nessuno sospettò la verità, ha ripreso a dire mia cugina. La suora portinaia, che non dormiva, corse dietro a Dominga per chiudere la porta con il catenaccio. Poi, nella confusione generata dall'incendio, prese la chiave dalla stanza della superiora e chiuse la porta come sempre. Tutti furono convinti che Dominga fosse morta, bruciata. I resti del cadavere erano irriconoscibili e furono inumati con la cerimonia in uso per la sepoltura delle suore. 2 mesi dopo cominciò a diffondersi la verità, ma le suore di Santa Rosa non vollero prestarvi fede e quando l'esistenza in vita di Dominga non era più un dubbio per nessuno, le sorelle continuavano a sostenere che lei era morta e che quello che si raccontava sulla sua presunta evasione era una calunnia. Ne furono convinte solo quando Dominga fece causa alla superiora per la restituzione delle 10.000 piastre di dote. Abbiamo lasciato le suore immerse in una fantasticheria che non volevamo interrompere. Scommetto, ho detto a mia cugina, che fra meno di 2 mesi queste religiose non saranno più qui. Lo penso anch'io, mi ha risposto, e ne sarei contenta. Queste tre ragazze sono troppo belle e gentili per vivere in un convento. L'indomani siamo uscite da Santa Catalina. Vi eravamo rimaste 6 giorni e le suore avevano adoperato ogni cura per farceli passare in modo gradevole. Magnifici pranzi, deliziose merende, gradevoli passeggiate in giardino e negli angoli più interessanti. Siamo state accompagnate alla porta da tutta la comunità alla rinfusa, senza cerimonie e senza etichetta, ma con un affetto sincero e toccante. Abbiamo pianto con loro per la pena della separazione. Era stata un'esperienza molto diversa da quella di Santa Rosa. Questa volta lasciavamo con rimpianto il convento. Per strada ci siamo fermati a più riprese per posare lo sguardo sulle torri di quell'asilo ospitale. Anche i bambini e le schiave, che non finivano di elogiare la bontà di quelle religiose gentili, erano tristi. La settimana successiva non passava giorno senza che ricevessimo dal convento dei doni di ogni tipo. Avevo serbato un ricordo così piacevole dell'accoglienza ricevuta a Santa Catalina che prima di partire da Arequipa sono andata molte volte nel parlatorio a chiacchierare con le mie vecchie amiche e ogni volta esse mi riempivano di regali. Mi hanno anche chiesto di mandare loro delle musiche di Rossini quando fossi tornata in Francia. La battaglia di Cangallo. Siamo uscite da Santa Catalina martedì 1 aprile perché mia zia, preoccupata per il marito e per la casa, non riusciva più a controllare la sua impazienza. Tutti dicevano che San Román, spaventato dal numero delle truppe di Nieto e dalla loro capacità di resistenza, non avrebbe osato avvicinarsi e sarebbe rimasto a Cangallo, fino a quando Gamarra non gli avesse inviato rinforzi da Cusco. Il generale, preoccupato dall'arrivo di Orbegoso, condivideva l'opinione della folla e si spazientiva della lentezza del nemico, anche se non dava disposizioni per riceverlo. Il monaco intonava già canti di vittoria sul giornale e i begli spiriti scrivevano canzoni trionfali in onore di Nieto, Carrillo, Morand e lamenti per San Román. Tutto questo era ridicolo e mi ricordava i cantori di strada di Parigi dopo le giornate di luglio. Quel martedì era giorno di festa ed era giorno di paga per l'esercito. Per farsi benvolere dai soldati, Nieto aveva dato loro il permesso di divertirsi ed essi ne avevano approfittato ampiamente. Erano andati nelle cicerias a bere la cicia, a cantare a squarciagola e a passare la notte nell'ubriachezza e negli eccessi. Del resto, non facevano che seguire l'esempio dei capi, che dal canto loro erano tutti riuniti a bere e giocare. Dato che erano convinti che San Román non avrebbe osato avanzare prima di avere ricevuto rinforzi, non avevano fatto preparativi e non hanno preso precauzioni. Negli avamposti regnava la stessa negligenza. Mercoledì 2 aprile, mentre i difensori della patria dormivano profondamente e smaltivano il vino della vigilia si era venuto a sapere dell'arrivo del nemico, ma la fiducia degli abitanti nelle notizie era piena di dubbi perché in passato erano stati tratti in inganno tante altre volte. In ogni caso, sono saliti tutti sui tetti. Alle 2 del pomeriggio non si era ancora visto nessuno, a parte quello che l'immaginazione di ognuno metteva nella lente del cannocchiale. Ci si cominciava a stancare, il sole bruciava, il vento secco e costante rendeva il caldo ancora più insopportabile e soffiava la polvere in faccia agli spettatori. Solo un'osservatrice intrepida come me riusciva a stare al suo posto. Mio zio mi gridava dal cortile che avrei perso la vista per il riverbero del sole e che San Román quel giorno non sarebbe arrivato. Ma io non tenevo in alcun conto i suoi consigli. Ero seduta sul bordo di un muretto, sotto a un grande ombrello rosso che mi proteggeva dal sole. Contemplavo il vulcano e la valle con un cannocchiale Chevalier. Seguivo le mie fantasticherie e non pensavo più a San Román. Quando sono stata richiamata alla realtà da un nero che mi gridava: «Signora, eccoli!» Mentre udivo mio zio salire, ho puntato il cannocchiale nella direzione indicatami e ho visto distintamente 2 linee nere in cima alla montagna, vicino alla bocca del vulcano. Le 2 linee, sottili come un filo, scendevano verso il deserto, descrivendo delle curve a destra e a sinistra e facendo degli zigzag man mano che avanzavano. Somigliavano agli stormi di uccelli migratori che compongono nell'aria una serie ininterrotta di punti neri e variano all'infinito la disposizione del volo. Scorgendo il nemico, gli abitanti hanno emesso un grido di gioia. Il monaco e Nieto li avevano messi in una difficile condizione dalla quale volevano uscire ad ogni costo. Anche nel campo di Nieto la gioia è stata grande. Gli ufficiali e i soldati si sono rimessi a bere la cice e a cantare inni di vittoria, celebrando il funerale degli avversari che stavano per essere sbaragliati e annientati. Verso le 3, Althaus è entrato nel cortile a briglia sciolta. Quando ha visto che eravamo tutti sul tetto di casa, mi ha chiamata con l'espressione di un uomo preoccupato. Io sono scesa e ho promesso allo zio di tornare a comunicargli le notizie apprese. Cugina, non mi sono mai trovato in un momento così critico. Pensate che questi miserabili sono tutti ubriachi. Non c'è un ufficiale in condizione di dare ordini, né un soldato in grado di caricare il fucile. Se San Román ha una buona spia, siamo perduti. In 2 ore sarà padrone della città. Sono risalita e ho comunicato allo zio i funesti presagi di Althaus. Me l'aspettavo, ha detto. Questi uomini sono degli incapaci. Perderanno la causa. E forse non sarà un gran male per il paese. Il piccolo esercito di San Román ha impiegato quasi 2 ore per scendere dalla montagna ed è venuto a collocarsi a sinistra del vulcano, sul monticello chiamato La Paceta. Althaus aveva previsto che il nemico avrebbe occupato questa posizione da cui dominava la fortificazione di Nieto. San Román aveva disposto le sue truppe in linee molto spiegate, sperando di creare l'illusione del loro numero. Ma si vedeva perfettamente che i ranghi avevano solo 2 uomini di profondità. Aveva anche fatto disporre i 78 uomini che costituivano la cavalleria in modo da formare un battaglione quadrato. In breve, aveva agito da abile tattico per dare l'impressione di avere un numero di uomini 4 volte più grande. Le Ravanas avevano acceso una moltitudine di fuochi sulla collina e sparpagliato in giro il loro materiale, facendo un grande fracasso e gettando grida che si sentivano fino in fondo alla valle. Quando le 2 armate si sono trovate di fronte, hanno avuto paura l'una dell'altra, ognuna era convinta della superiorità di quella nemica. L'impressione di efficienza data da San Román faceva temere a Nieto che i suoi eleganti immortali non avrebbero retto all'urto con i vecchi soldati dell'avversario. San Román, dal canto suo, vedendo la superiorità numerica delle truppe di Nieto, pensava di aver commesso un'imprudenza e aveva perso la testa. San Román era un buon soldato, ma non era più saggio né meno presuntuoso di Nieto. In base ai resoconti delle sue spie, pensava di andare incontro a una facile vittoria ottenuta persino senza combattere. Molti suoi ufficiali erano convinti di entrare ad Arequipa la sera stessa e partendo da Cangallo si erano preoccupati solo del vestito per essere pronti all'arrivo a fare visita alle signore. La stessa sicurezza aveva spinto i soldati a rovesciare le marmitte gettando via il cibo avanzato al grido di «Viva la minestra!» delle caserme di Arequipa. Le Ravanas Volendo far credere che stavano cucinando, si muovevano molto, ma non avevano neanche una pannocchia da mettere sul fuoco, né altro cibo da offrire ai compagni. Per colmo di sventura, l'esercito si trovava accampato in un posto dove non c'era una goccia d'acqua. Quando San Román si è reso conto della sua posizione, non è riuscito a far altro che disperarsi e piangere come un bambino. Fortunatamente per lui, abbiamo saputo dopo. Ma egli aveva accanto tre giovani ufficiali di grande coraggio, fermezza e intelligenza che lo hanno tratto d'impaccio: Torres, Montaya e Quiroga, degni di servire una miglior causa, hanno assunto il comando, risollevato il morale dei soldati e placato i mormorii insolenti delle Ravanas. Dando l'esempio della capacità di adattamento che ogni militare deve avere in momenti simili, hanno tagliato con le sciabole i fichi d'India, che crescono abbondanti sulla montagna, e le hanno masticate per primi per spegnere la sete. Poi ne hanno distribuite ai soldati e alle Ravanas, che le hanno prese con un atteggiamento sottomesso e non hanno osato protestare. Ma gli ufficiali si sono resi conto che questo espediente avrebbe calmato l'irritazione dei loro uomini solo per poche ore, perciò hanno deciso di rischiare il combattimento, preferendo morire di spada che di sete. Il tenente Quiroga ha chiesto ai soldati se desiderassero di più ritirarsi senza combattere, fuggendo vergognosamente davanti al nemico ed esponendosi al rischio di perire di fame e di sete nel deserto, o se non avrebbero prediletto far sentire la potenza del loro braccio a quella banda di fanfaroni degli avversari, incapaci di resistere malgrado il vantaggio del numero. In qualsiasi altra circostanza i soldati avrebbero preso la fuga alla sola vista del nemico, ma in questa occasione hanno risposto con entusiastiche acclamazioni alla bellicosa arringa e hanno chiesto di combattere. Erano circa le 7 di sera e io ero appena risalita al mio posto di osservazione. Nei due campi sembrava regnare la calma e si pensava che, data l'ora avanzata, la battaglia sarebbe stata rimandata al giorno dopo alle prime luci dell'alba. All'improvviso, dal battaglione quadrato di San Román ho visto staccarsi una specie di portabandiera, seguito dallo squadrone di cavalleria. Subito dopo, dall'esercito di Nieto sono andati loro incontro i dragoni comandati dal colonnello Carrillo. I due squadroni si sono lanciati in avanti a passo di carica e quando sono stati a portata di tiro è partita una moschetteria, a cui ne è seguita un'altra e un'altra ancora. La battaglia era cominciata. Ho sentito un gran rumore nei due campi, poi il fumo è diventato così spesso da nascondere la scena della carneficina.